prima edizione. Sono 6:15, tra poco vedremo le prime pagine dei quotidiani, naturalmente molto puntate sulla politica. La notizia dell'ultima ora comunque è il nuovo nubifragio che si è abbattuto su Genova. Più avanti ci collegheremo proprio con il capoluogo ligure per capire com'è la situazione. Ci risentiamo dopo la viabilità. Strade in diretta. Buongiorno da Strade in diretta, massima prudenza a chi o deve mettersi in viaggio in queste ore. Il maltempo non dà tregua e il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un altro avviso di avverse condizioni meteo. Per oggi previste piogge diffuse e intense al nord, specie sulle zone occidentali, sulla Toscana e sulla Sardegna. In giornata si attende un peggioramento anche su gran parte delle regioni meridionali. E in Puglia prudenza per i banchi di nebbia sulla 14 Adriatica, solo 40 metri di visibilità tra Mottola e Acquaviva delle Fonti. Mentre nel nodo autostradale di Genova si viaggia con difficoltà per il violento nubifragio da poco avvenuto. Traffico in aumento verso le grandi città. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Centinaia di commercialisti, clienti dei più diffusi software gestionali, hanno recentemente fatto l'upgrade a Business Pass Live, la prima soluzione cloud computing per lo studio professionale. L'hanno fatto spinti dalla possibilità di ridurre i costi fino all'80%, di liberarsi da ogni problema di gestione per avere il fornitore di servizi sempre online o per fornire nuovi servizi ai propri clienti. E tutti hanno trovato forti vantaggi per il loro business e vantaggi per i loro assistiti. Per incontrare Business Pass Live, lo studio professionale esteso, chiedi la visita di un consulente all'800 41 42 43 o su passepartout.net. Prima edizione. Le 6:18, un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, oggi naturalmente molto dedicate alla politica, a partire dal Sole 24 Ore, e l'apertura e anche il titolo è significativo: Berlusconi resiste, lo spread vola, il premier fiducia sul maxiemendamento, voglio vedere in faccia i traditori. I commenti sono il punto di Stefano Folli, il bivio finale di un leader isolato, e l'analisi di Giampaolo Galli, le promesse mancate. Da segnalare però che commento forte di giornata è l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, che firma appunto l'editoriale La fiducia del mondo per uscire dalla spirale italiana. Il Sole segnala anche sull'emergenza maltempo a Genova: 200 milioni di danni, nubifragio all'Elba, una vittima, e naturalmente ampio spazio ai mercati e al alla nuova puntata del manuale antipanico che sta pubblicando il Sole 24 Ore, questa volta dedicato allo scudo dai conti correnti, uno scudo dai conti correnti alle azioni. Il Corriere della Sera: Berlusconi, vi sfido a votarmi contro, vertice con la Lega, richiesta di un passo indietro, poi la smentita. Il retroscena dal quartier generale del Cavaliere di Marco Galluzzo: se proprio devo morire lo farò in aula. E poi un pezzo di Aldo Cazzullo sulle parabole, Craxi, Prodi e il crepuscolo dei leader. Editoriale di prima pagina a firma di Sergio Romano: lunga agonia, costi aggiuntivi, trovare subito una soluzione. Interessante quel che riguarda la Banca Centrale Europea e che pubblica il Corriere della Sera: conti italiani, vigilerà anche la BCE di Draghi. E un commento di Lucrezia Reichlin: un'Europa debole che non sceglie più. Questo il quadro dal Corriere della Sera. Repubblica: Berlusconi resiste, i mercati fuggono. Questo è il titolo di apertura. Chiederò la fiducia, voglio vedere in faccia i traditori. Oggi primo test sul rendiconto. Da segnalare il titolo di centro pagina, che l'alluvione devasta l'Elba e la Lega, la pioggia caccia i Rom. Questo il titolo. Repubblica decide di spingere da questo lato. Benzinai in sciopero, 3 giorni senza benzina, segnala appunto anche il quotidiano tra i suoi titoli. Anche in prima pagina anche la condanna per il medico di Michael Jackson. E restiamo sui quotidiani italiani. La Stampa: l'atto di forza di Berlusconi, metterò la fiducia sulla lettera all'Europa, voglio vedere in faccia chi mi tradirà, dice ancora il Premier, voci di dimissioni, la borsa decolla e poi ripiega dopo la smentita. Altri retroscena, oggi quello di Francesco Manacorda, in famiglia, pranzo coi figli che gli dicono non mollare, con Faronieri, un passo indietro, no, Silvio non è mica un gambero. Il commento di prima pagina è affidato in realtà all'economista Mario De Aglio ed è il vuoto che affonda il paese. Da segnalare anche la vicenda dei due alpinisti prigionieri, tra virgolette, diciamo così, del Monte Bianco. Per i due alpinisti prigionieri del Bianco resta solo la speranza, fino a domani impossibile raggiungerli, segnala La Stampa. E da segnalare anche in tema di Europa il commento di Enzo Bettiza, lo psicodramma della diarchia franco-tedesca. Questo per quanto riguarda La Stampa. Il Messaggero, l'apertura naturalmente sempre sul governo. Governo, la sfida di Berlusconi, voglio vedere i traditori in faccia, anche la Lega chiede il passo indietro, c'è naturalmente un titolo sui mercati, anche Marco Conti del Messaggero dice la decisione di andare avanti dopo il consulto con la figlia Marina, anche qua un'immagine a centro pagina e devo dire qua veramente abbastanza significativa della devastazione che è arrivata con il maltempo all'isola d'Elba. E poi l'ultimatum del commissario Rehn, monitoraggio con la Banca Centrale Europea, crisi, missione europea a Roma, servono risposte chiare. Ma c'è anche un titolo sul piano di austerity francese, Parigi congela gli stipendi di Sarkozy e dei ministri. E poi anche qua un titolo su Michael Jackson. Allora oggi vogliamo portare anche un paio di quotidiani, per così dire, più orientati politicamente, visto che la giornata forse lo richiede. Il Giornale apre con un non me ne vado, Berlusconi resiste, il Cavaliere sfida quelli che il Giornale chiama i Giuda, se volete sfiduciatemi in aula, voglio guardare in faccia chi mi tradirà. E poi un editoriale a firma di Vittorio Feltri, il mercato delle vacche, vergogna in Parlamento, questo è il titolo, mentre c'è un altro editoriale firmato da Alessandro Sallusti, sempre in prima pagina. La Padania, oggi prove di ribaltone, il Premier decide di porre la fiducia alla Camera sulla lettera presentata all'Europa e alla BCE, incertezza per le scosse interne al PDL tra fuoriusciti ed indecisi. Infine l'Unità, l'ultima guerra di Berlusconi, la borsa lo boccia, Bossi lo avvisa, Letta lo molla, lui insiste. E a centropagina una foto di spalle del Cavaliere mentre si asciuga il sudore e il titolone è La fine della Seconda Repubblica. Qualche occhiata anche ai quotidiani stranieri. Iniziamo dal New York Times, che dedica ampio spazio, come era prevedibile naturalmente, alle vicende italiane. Da segnalare nell'analisi che viene fatta da Roma da Rachel Donadio, che è la corrispondente appunto da Roma del New York Times, oltre a questa intervista a Roberto Dalimonte, che dice sostanzialmente it's a big mess, è un grande casino, segnala che le grandi difficoltà italiane sono nel trovare spazio politici per partiti politici che abbiano voglia di prendere delle iniziative impopolari come le misure di austerity. Da segnalare anche il Wall Street Journal, che parla di rendimenti che salgono e di Italia vicina al punto di crisi, e il Financial Times che fa altrettanto. I titoli di Stato italiani sono portati e sono vicini alla zona del pericolo. Adesso, prima di andare col giornale radio, cambiamo argomento. E ci colleghiamo, come promesso, con Andrea Ferro da Genova per capire com'è la situazione, perché sappiamo di un altro violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina. Andrea, buongiorno. Che cosa succede? Sì, buongiorno Simone, alle 2.30 ci siamo svegliati sotto una scarica d'acqua molto potente, ma poi nella zona del centro della Val Bisagno si è trattato di rovesci a sprazzi con pause anche abbastanza lunghe. Ora da 20-25 minuti fulmini, tuoni, ancora tanta acqua. Nella parte di ponente della città tra Arenzano e la zona di San Pier d'Arena questa precipitazione molto intensa si è scatenata già da un paio d'ore, così mi dicono gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. E ci sono i primi allagamenti, ripeto, in questa parte occidentale della città. Si tratta dei sottopassi della zona di Cornigliano e di Multedo, che chiaramente sono già stati chiusi. I torrenti a questo punto sono tutti monitorati istante per istante. Il livello resta però al momento ben al di sotto dei livelli di guardia. Ripeto, piove, ma piove in maniera, diciamo così, non incessante, si tratta di sprazzi che in questo momento però stanno assumendo una certa continuità. C'è pioggia battente ma diciamo non rovinosa nell'imperiese, mentre sta crescendo di intensità in provincia di Savona, dove nella notte ci sono stati alcuni interventi dei Vigili del Fuoco, li ho contattati pochi istanti fa. Due note, massi sono caduti sulla strada tra Millesimo e Cengio in Valmorbida, un albero è stato sradicato lungo la Oreglia ad Albisola ed è finito su un'auto in sosta, si tratta di note per il momento di una certa irrilevanza. C'è paura per questa bomba d'acqua perché potrebbe ripetersi quello che è accaduto venerdì, ripetono esplicitamente alla Protezione Civile ormai da più di 24 ore, perché questa perturbazione in realtà è sempre la stessa perturbazione, ma questo nuovo fenomeno era atteso inizialmente ieri mattina, poi via via nel corso della giornata la previsione è slittata, si è parlato della serata, della notte, a questo punto stiamo arrivando alla mattina, siamo al quinto giorno, pensate, consecutivo di allerta 2, non era mai successo nella storia recente di Genova, e questo riguarda non solo Genova ma anche Savona, provincia e le Savona ed Imperia, scusate, e le relative province. Mentre invece nello Spezzino e quindi nelle zone alluvionate del 25 ottobre l'allerta è 1, un livello più basso. L'allerta complessivo, sia allerta 1 che allerta 2 per l'intera regione, dovrebbe terminare alle 18, forse. Speriamo, potrebbe essere la fine di questa emergenza infinita. Grazie ad Andrea Ferro, che ritroveremo naturalmente nel corso della giornata e nel corso dei nostri giornali radio a seguire le vicende appunto di Genova e della Liguria. Andrea, buona giornata. Sì, buona giornata a voi. Prima edizione. 6:36 minuti, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Oggi è l'8 novembre, buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi parliamo di un museo molto molto particolare, è un museo sul viaggio a Roma nato a Milano, Maria Chiara Grandis. Il primo documento storico che parla di Zingari in Italia è datato 1422, la cronaca di Forlì. Il cuore rallenta, la testa cammina. Questo museo è nato soprattutto perché ci sia un interscambio culturale con i vicini più diversi. Parliamo di un gruppo di cittadini italiani, milanesi di minoranza Roma e Sinti, presenti sul territorio cittadino da secoli. Per un solo dolcissimo amore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Noi ci rivolgiamo non solo al quartiere, ma a tutta la cittadinanza, perché questo è il primo tentativo di cercare di mettere insieme tutti gli aspetti culturali all'interno di una piccola area che è questa, quella di un piccolo campo comunale di Milano. È dedicato a Fabrizio De André, il primo museo della cultura rom in Italia. Si chiama Museo del Viaggio e ha sede a Milano, al campo comunale di Via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Fra la tangenziale e le ferrovie, qui vive una piccola comunità di 40 persone, diverse generazioni di un'unica famiglia allargata rom, nonni, figli, nipoti. Un campo comunale diverso da come lo si immagina. C'è il numero civico sul cancello all'ingresso, ci sono le auto parcheggiate, le aiuole con i fiori, le case prefabbricate e le galline in cortile. Il museo è gestito dall'Opera Noma di Milano e dalla cooperativa Romano Drom. Lo visitiamo con Giorgio Bezzecchi, Roma Arvato, italiano di origine croata che di mestiere fa il mediatore culturale. Qui troviamo diverso materiale documentale, ma soprattutto troviamo delle pubblicazioni del Centro Studi Zingari di Roma, che partono dal 65. E abbiamo tutta questa documentazione che è particolarmente interessante e devo dire che era l'unica documentazione esistente per gli anni 60, 70 e 80. C'è anche sociologia, letteratura, la cucina e diverso altro. Sempre all'interno del museo hai anche i prodotti tipici della professione dei Rom e quindi hai le pentole di rame, il ferro lavorato, piccole collane, oppure la stessa bandiera romanì, una bandiera dove hai sotto il verde, sopra l'azzurro con una ruota al centro rossa, il verde rappresenta la terra, l'azzurro il cielo, la ruota il movimento. Era Italia in Controluce, prima edizione, torniamo oggi 13:30 naturalmente su Radio 24. No, oggi quella testa di cazzo doveva andare a Milano, cioè c'ha degli appuntamenti, torna stasera, si diventerà domani. Eh sì, ma sei sicuro? Beh, questo è quello di stanotte a luna, ecco. Che cazzo andiamo a fare? E oggi c'è il rischio che se ne vadano altri due o tre, quindi per quello io volevo veramente solo questa stamattina, perché se lo fa stasera ogni ora che passa è più debole. E questo, insomma, l'avrete sentito ieri spesso, magari anche alla Zanzara, era Guido Crosetto, perché poi alla fine della serata lo ha messo in un comunicato stampa al telefono con il vice direttore di Libero Franco Bechis, che dice, insomma, si dimetterà nel corso della giornata, insomma, quindi questa indiscrezione che ha fatto anche ballare i mercati, anche di questo, anche di come hanno ballato i mercati ieri parleremo tra un attimo. Intanto io saluto Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, buongiorno. Buongiorno a voi. Nostro consueto ospite, di solito più che altro per commentare, e invece in questo caso proprio per parlare di voi, perché un'altra delle indiscrezioni, fortunatamente a mercati chiusi, è arrivata da voi ieri. Che cosa avete saputo, Angelo? Ma per esempio, tra le cose che ieri sono emerse, ma la realtà è in grande evoluzione, è che la Lega potrebbe essere proprio quella che mette in movimento la situazione di stallo, cioè che anticipa tutti e si defila. Questa è una delle possibilità delle prossime ore. Perché quello, come dire, appunto, proprio perché la situazione è molto in evoluzione, ieri dicevate voi, fonti di Via Bellerio ci dicevano: domani mattina va al Colle e lascia tutto. Questo era il quadro di ieri pomeriggio, e quello che si diceva a Roma ed è confermato da questa telefonata di Crosetto, il quadro ieri era questo. Però ripeto, la situazione è in evoluzione, sta cambiando di momento in momento. Berlusconi si rende conto che non si schioda da 310-311 voti e sembrerebbe che i suoi oppositori ne abbiano 315, quindi la sensazione è che, presa la decisione di lasciare, ora stanno decidendo il come in rapporto agli scenari futuri, per cui mi sembra che il governo Berlusconi sia il capolinea. Ora ogni contendente del centrodestra e del centrosinistra sta definendo il suo posizionamento. Questo ci sembra il quadro, e quindi a questo punto quello che ci sembra facile ipotizzare è che oggi alle 15:30, insomma, in sostanza possa veramente attendere, come ha detto, di vedere in faccia chi lo tradisce, ossia vedere insomma com'è, se esiste una maggioranza in Parlamento ancora, per quanto risicata e per quanto scarsa, e poi comunque decidere di dimettersi a prescindere. Questo mi sembra che sia lo scenario più probabile che circola, cioè sia che abbia la maggioranza sia che non ce l'abbia. Esattamente, cioè Berlusconi capisce che oggi potrebbe sfangarla, come si dice, cioè nel gioco delle attenzioni, nel gioco dei posizionamenti, sul rendiconto il senso di responsabilità prevarrà, perché non possiamo evitare il rendiconto, sarebbe veramente lo sfascio conclamato dell'intera classe politica. Ma dentro il voto Berlusconi leggerà ancora meglio il verdetto del pollice verso, e a quel punto egli probabilmente vorrà uscire di scena con una bocciatura alla Camera sul provvedimento, diciamo, BCE, cioè sulla ricetta concretizzata annunciata forse in un decreto con le misure anticrisi. A quel punto, se lo bocciano, potrà dire: io sono il vero depositario degli accordi con l'Europa e gli altri non me li fanno fare, e avrà ottimi argomenti per la campagna elettorale. Vedremo che cosa succederà dunque in questa giornata decisiva. Grazie nel frattempo ad Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, per essere stato con noi. Affariitaliani.it, naturalmente un sito, un quotidiano online, e lo trovate su internet. Buona giornata, Angelo. E noi adesso invece, proprio a proposito di numeri parlamentari, andiamo a risentirci l'intervista che la nostra Elisabetta Fiorito ha realizzato con Roberto Rao dell'UDC sul tema di Silvio Berlusconi, che sta cercando di recuperare i parlamentari che nei giorni scorsi sono passati con il partito di Pier Ferdinando Casini. Sentiamo. Non so, credo che qualche telefonata abbia già cominciato a farla, ma non è un problema. Noi non abbiamo pregato nessuno, abbiamo incontrato parlamentari che non ne potevano più di condividere delle responsabilità assolutamente inspiegabili di questa maggioranza. Tre di questi parlamentari hanno deciso di compiere un passaggio nelle file dell'UDC, che ha una comune matrice nel Partito Popolare Europeo rispetto a loro, e come tali sono stati accolti e faranno parte del nostro gruppo. Se il Presidente del Consiglio ritiene di continuare a telefonare e insistere, io vuol dire, evidentemente non ha di meglio da fare in questo momento. Ma lei ha sentito qualcuno di questi parlamentari che le hanno detto, le hanno confermato che Berlusconi li ha chiamati? Sì, un parlamentare, uno dei tre, mi ha detto che aveva appena ricevuto una telefonata del Premier, ma insomma, cordialità a parte, ognuno è rimasto alle sue idee. Non si può sapere chi è dei tre? Ma non cambierebbe tanto. Prima edizione. Giornata dunque, come abbiamo detto, di grande oscillazione sui mercati. Ieri, a causa proprio delle indiscrezioni sulle dimissioni del Premier, c'è chi scherzava ieri, insomma ormai la borsa è un derivato delle dimissioni di Berlusconi, insomma, battutaccia. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, però non avrei potuto trovarne una migliore di battuta. Mi sembra molto efficace, Simone, buongiorno. Buongiorno, allora com'è andata ieri brevemente, Deborah? Allora, ieri abbiamo avuto una giornata nervosa per tutte le borse, si è vista con chiarezza, come dicevi, la relazione tra mercato e politica. La giornata di Piazza Affari è stata letteralmente lo specchio di quello che accadeva a Roma nei palazzi, una giornata che era partita con segnali pessimi, borsa negativa, spread alle stelle fino al record assoluto di 491 punti base, il rendimento sul titolo decennale che è arrivato al 6,68%, poi le voci sulle possibili dimissioni in arrivo dal Presidente del Consiglio, la borsa ha preso a volare, è arrivata a guadagnare il 3%, lo spread ha avuto una netta discesa. Poi ancora, sulla smentita delle dimissioni, la borsa ha ritracciato, anche se ha chiuso bene, lo spread ha chiuso a sua volta 485 punti base. C'è da dire che ieri la BCE ha comprato ancora i nostri titoli di Stato, chissà se no dove saremmo arrivati. Ieri però, a confermare il nervosismo degli investitori verso il nostro debito e verso lo stallo politico, che per gli investitori è inaccettabile, c'è stato anche un altro segnale, c'è stato un balzo dei rendimenti sul breve termine, sul titolo biennale, che nel corso della giornata è schizzato addirittura in prossimità del 6,2%, e quindi il mercato alla politica italiana sta facendo una richiesta estremamente precisa. Oggi è una giornata interessante, vedremo la reazione del mercato anche rispetto ad altre cose, perché probabilmente lo avrete detto, si è svolta la riunione dell'Eurogruppo, che si è conclusa con delle dichiarazioni positive sulle misure annunciate dall'Italia, la conferma che arriverà in Italia entro mercoledì una missione tecnica dell'Unione Europea e della BCE per monitorare la situazione, e quindi ci sarà una reazione anche su questo. Volevo segnalare anche un altro fatto, Simone, che è successo ieri rapidamente, se non sono in ritardo. Siamo lievemente in ritardo, Deborah. Volevo solo dire che ci sono state delle rassicurazioni da parte del membro della BCE, Jürgen Stark, secondo cui la crisi del debito in Europa dovrebbe essere sotto controllo in un paio d'anni. È un personaggio molto originale. Sì. Questo perché è quello che si è dimesso dalla BCE. È l'uomo che si è dimesso dalla BCE, diciamo, perché in contrasto. Non voleva che si acquistassero i titoli di Stato dei paesi in difficoltà, creando un altro momento di tensione sul mercato. Speriamo, Deborah, che le sue parole facciano bene. Bene, grazie Deborah Rosciani, e buona giornata. Archie Harris, Muhammad Ali, look to you. Aren't you beautiful? E ritorniamo sulla morte nella notte di Joe Frazier con Dario Ceccarelli. Dario. Sì, Simone, è morto stanotte a soli 67 anni Joe Frazier, quello che è stato uno dei miti della box negli anni 60 e 70. In particolare fu uno degli avversari più famosi di Muhammad Ali. Tra il 71, il 74 e il 75 hanno fatto tre incontri che hanno segnato la storia della box e erano battaglie vere e proprie, quando la box era ancora la box che la segnava non solo la storia dello sport ma la storia del paese. Era un grande momento di vita. C'era allora Frank Sinatra al Madison Square Garden che faceva fotografie per la rivista Life, Woody Allen, e furono battaglie gigantesche dove se le diedero di santa ragione. Erano due mondi contrapposti. Frazier era l'uomo, il nero, che stava così dalla parte dei bianchi, mentre Muhammad Ali era stato quello che aveva rifiutato il militare, che era stato arrestato, e si odiavano. Uno diceva che l'altro era un gorilla, era Muhammad Ali ovviamente, e l'altro diceva che era un gran bastardo, e finirono odiandosi per tutta la vita in quel modo che come sapevano fare i pugili di quel tempo lì. E poi adesso scrivendo articoli come ha fatto Muhammad Ali di dolore per la morte di Frazier. Grazie Dario Ceccarelli, noi ci risentiamo tra un attimo col GR particolarmente importanti questa mattina. Gli aggiornamenti da Genova ci dicono che le autorità starebbero invitando la popolazione a non uscire di casa perché il diluvio è molto forte. Ci risentiamo tra poco.